Questa sera, come vedete, come ospiti, Marco Brando, giornalista e studioso storico del specializzato nel Medioevo, collaboratore per grandi testate nazionali, fra cui ricordo il Corriere del Mezzogiorno, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano, per citarne alcuni. Ha collaborato anche e collabora con alcune trasmissioni televisive, radiofoniche, e soprattutto l'abbiamo avuto come ospite prima del Covid, nell'era pre-Covid, quando è venuto a presentare, sempre in questa sala, il libro dedicato a Federico II di Svevia. Quindi torneremo oggi di nuovo in un momento storico a noi lontano, ma anche vicino, come ci dice Marco Brando, e viene utilizzato e raffigurato così nell'immaginario collettivo in un certo modo, e oggi invece scopriremo che forse ci sono anche altri modi di pensare il Medioevo. Benissimo, quindi il tema, il focus è parte dal libro scritto da Marco Brando, appunto Medioevo, l'età di mezzo nei media italiani, che potete leggere in biblioteca ma anche trovare qua in fondo alla sala in vendita. Abbiamo preparato comunque anche la solita nostra vetrina con altri suggerimenti di lettura, oltre che i libri di Marco Brando. Vi segnalo la serata di domani, dedicata invece al maestro Carlo Maria Giulini, un bolzanino scomparso alcuni anni fa, ma di fama internazionale, un direttore d'orchestra, un musicista che ha avuto una fama veramente incredibile e soprattutto anche degli allievi a loro volta straordinari. Quindi vi invitiamo alla conferenza di domani con la presentazione del libro La musica è un atto d'amore, una conferenza e presentazione che viene organizzata insieme all'edizione Alfabeta e alla Soroptimist sezione di Bolzano. E poi i prossimi appuntamenti: la settimana successiva ci troveremo qui con la presentazione del libro Fabio Stassi, Bebelplatz, dedicato alla notte dei libri bruciati. Sarà con noi Emanuela Scicchitano. E poi infine un'altra iniziativa che avremo il giorno mercoledì 16 aprile alle 17, sarà con noi di nuovo Sandra Bonzi, cioè non sarà per la verità lei presente, ma parleremo con il nostro gruppo di lettura del libro di Sandra Bonzi, 9 giorni e mezzo. Ecco, allora io a questo punto lascio la parola a Hannes Obermeier, che è il nostro storico e ricercatore presso l'Eurac, che ci accompagna da tanti anni anche nelle presentazioni ed è ispiratore di molti incontri organizzati anche dalla biblioteca. Quindi lascio la parola a Hannes Obermeier per questa introduzione e ringrazio ancora i nostri ospiti e tutti voi che siete presenti. Grazie. Grazie Valeria, grazie alla biblioteca per l'invito. E grazie a voi della vostra presenza e soprattutto grazie a Marco di essere venuto a Bolzano per parlarci del suo nuovo libro. Noi ci conosciamo da un po', 20 anni, sì, e grazie a questo libro, peraltro a questo tema, Federico II, che ha dato spunto a un tuo bellissimo libro che abbiamo presentato qui ormai poco prima di Covid, cioè per avere un po' lo spartiacque epocale, siccome siamo anche con questo libro nel tema delle periodizzazioni, delle nomenclature, allora nel pre-Covid, e però è un fenomeno non nuovo al Medioevo, no? Perché le pandemie sono quei fattori che contrastinguono la vita e la morte di larghe strati della popolazione, non solo europea, di quel periodo. Comunque, il libro che Marco ha pubblicato qualche mese fa, Medioevo, l'età di mezzo nei media italiani, è un libro che ho avuto la fortuna già di leggere diagonalmente, come si suol dire, cioè corsivamente. Libro molto bello, molto intelligente, perché è alla ricerca di una rilettura, di una critica delle nozioni medievali e dei medievalismi di vario genere. E quello che io, come, cioè, questa serata, che io vorrei chiederti come hors d'oeuvre, per così dire, cioè, per te cos'è il Medioevo? Perché? Per te il Medioevo cos'è? Cioè, non ci siamo preparati, nel senso che scusami, cioè, se no faccio un'altra domanda. No, se no, va bene. Va bene? Ok, se va bene allora. Quindi vuoi sapere? Vuole sapere da te cos'è, cioè per te cos'è il Medioevo? Beh, il Medioevo. Ci sono storici del Medioevo che, rischiando di perdere il posto di lavoro, hanno sostenuto e sostengono che bisognerebbe abolire la categoria del Medioevo perché è una costruzione culturale. Successiva al Medioevo, chi viveva nel Medioevo non sapeva di essere nel Medioevo, non sapeva manco di essere nell'anno 1000, perché il calendario che adottiamo noi non era il loro e per giunta non c'era questa consapevolezza. Però diciamo che il Medioevo è stato inventato in epoca umanistica, alla fine del Medioevo, e come un periodo da considerare in chiave negativa, contrapposto al futuro radioso garantito dall'epopea degli umanisti e poi degli illuministi successivamente, e della società moderna, contrapposto poi a un altro periodo meraviglioso che era quello dell'epoca classica. Quindi il Medioevo già nasce come... Ma è veramente esistito allora? Medioevo cronologicamente esistito in un'area geografica limitata, che è quella che coincide con l'impero, con i territori, con l'Europa romano-barbarica, ecco, diciamo così, cioè quella che è nata dalla fine cosiddetta dell'impero romano d'Occidente, che si è mischiato, poi le cui popolazioni si sono fuse con popolazioni cosiddette barbariche del nord-est Europa, che già erano presenti nell'impero perché si occupavano della difesa dell'impero medesimo, e diciamo questi 1000 anni di storia nascono in un territorio ben delimitato. Quindi bisogna fare l'errore di parlare di ritorno al Medioevo in posti in cui il Medioevo non c'è mai stato, perché culturalmente, storicamente, filosoficamente, artisticamente coincide con un'area ben limitata. È chiaro che 1000 anni sono un periodo lunghissimo, fanno bene gli inglesi a dire Middle Ages al plurale, perché sono varie età. Se consideriamo che l'età moderna, così come viene insegnata all'università, riguarda tre secoli di fatto e qualcosa, il Medioevo sono 10 secoli in cui è successo di tutto. Se noi facessimo cominciare il Medioevo ai tempi di Barbarossa, nel XII secolo, di suo nipote, nel XIII, che non sapeva che non sapevano di essere medievali, anzi pensavano di essere eredi di Roma, eccetera eccetera, ovviamente il cristianesimo poi sulla cultura medievale ha avuto l'effetto che conosciamo. Ecco, se facessimo cominciare il Medioevo ai tempi di Barbarossa, mancherebbero ancora quasi 2 secoli alla fine del Medioevo, e pensate cosa è successo da Barbarossa a Trump, per dire, mettendoci in mezzo guerre mondiali, il web, la rivoluzione industriale, gli aerei, la rivoluzione francese. Cioè sono secoli in cui è successo di tutto, quelli che ci separano dal XII secolo all'inizio del XXI attuale, idem quelli che separano il V secolo dal X secolo o dal XV, quando finisce convenzionalmente il Medioevo, è successo di tutto. Insomma. Comunque, Marco, io non volevo farti questa domanda per, come dire, torturarti, no? sul spiegarci come era, tanto per così stiamo per capire, diciamo. Il mio non è Medioevo, è Mediaevo. Sì, certo, no, ma si parla di nozioni, no? Cioè si parla di concetti, e tutti noi abbiamo dei concetti che ci trasportiamo dietro, anche tu per certi versi, immagino. Però in questo libro, e arriviamo al dunque, no? Tu cerchi in qualche modo di tracciare una nuova lettura, no? Soprattutto tu parli non tanto del Medioevo, appunto lo sottolinei, no? Anche con la scrittura, ma parli dell'uso del Medioevo, del suo abuso del concetto. E allora, e qui siamo perfettamente dentro in un dibattito che potrebbe anche essere accademico, no? Cioè, cosa ti ha spinto a scrivere questo libro, uscendo, a mio avviso, no, avendolo appunto parzialmente letto, dal discorso accademico. Cosa c'è di non accademico nella questione di come oggi noi affrontiamo, usiamo, utilizziamo, abusiamo del concetto di Medioevo? Allora, premetto che io non sono uno storico di professione, al di là dei miei studi universitari, io da 43 anni, ahimè, faccio il giornalista. E mi sono occupato di qualsiasi cosa in questo campo. Diciamo che il metro del giornalista e quello dello storico hanno qualcosa in comune, perché si tratta di trovare delle fonti, non abboccare alla prima cosa che ti capita, verificarle, di riuscire a interpretarle, a spiegarle gli storici in maniera più dedicata al mondo accademico scientifico, i giornalisti dedicandosi a un audience di massa. Ecco, bisogna cercare di elaborare le fonti e fornirne una versione affidabile, non la verità assoluta che non esiste, ma si lavora un po' allo stesso modo. Però io da 20 anni a questa parte, da poco prima che conoscessi Hannes, mi sono dedicato come giornalista, grazie a un maestro che ho avuto, che è un grande medievista che è morto qualche anno fa, Raffaele Licinio Barese, che già negli anni 70... Al quale tu dedichi il libro, peraltro, no? Cioè, già all'amico Licinio, storico medievista, che mi ha aperto gli occhi sui secoli bui. Sì, già Raffaele già negli anni 70 si occupava del modo in cui nella società contemporanea utilizziamo il Medioevo come stereotipo, sia nel linguaggio comune, lui soprattutto nella letteratura e nel cinema. Io mi ha incoraggiato ai tempi a occuparmi del mito di Federico II di Svevia nella cultura di massa, ed è il libro di cui si è parlato poco fa, in cui mi occupo del modo in cui il mito di Federico II di Svevia viene usato in aree diverse dell'Italia, in Germania e anche nel mondo islamico, a cominciare dalla Puglia, dove era buono delle favole, per arrivare alla cosiddetta Padania, dove anche in base alla retorica della leghista era diventato il nemico assoluto dei popoli liberi, assieme a suo nonno Barbarossa. Sappiamo che c'è un partito tuttora che ha il simbolo di Alberto da Giussano, che peraltro non è mai esistito, sul bavero della giacca. Qui sono andato avanti perché, in base al mio... io sono un professionista dell'informazione, mi occupo di storia in maniera quasi professionale da molti anni, tanto che sono uno dei pochissimi non accademici accolto nella Società Italiana per la Storia Medievale, in quella per la didattica della storia e altre. Però, ecco, mi occupo della percezione del Medioevo, dopo il Medioevo, soprattutto sugli organi di informazione e sul web. In particolare me ne occupo in questo libro. È una branca della medievistica. Quando abbiamo iniziato a occuparcene noi 20 anni fa, in Italia perlomeno non si parlava di medievalismo inteso come studio del Medioevo, così come percepito dopo il Medioevo, soprattutto nella società contemporanea. Se ne parla da una 15 anni a questa parte, e ora il medievalismo è una branca della medievistica, insegnato anche nelle università, e c'è persino un settore dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo che si dedica a questo tema. Medievalismo, magari ce lo spieghi un attimino? Cioè, medievalismo. Medievalismo si intende il modo in cui la società contemporanea, in particolare quella occidentale, nel mio caso quella italiana, metabolizza e usa una serie di stereotipi, di luoghi comuni sul Medioevo nel linguaggio comune. In particolare io mi concentro su un fenomeno strano di cui parlo nel libro. In ambito giornalistico, in tutti i settori della cronaca, da quella rosa a quella sportiva, a quella nera a quella economica e via di questo passo, si usa il termine ritorno al Medioevo come sinonimo di arretratezza, oscurantismo, barbarie, malattie, eccetera, eccetera. Poi vi farò vedere una carrellata di titoli, ne cito molti nel libro, ma ve li farò vedere perché è bello vedere a cosa mi riferisco. Ecco, l'impatto sui mass media dello stereotipo negativo sul Medioevo, inteso come sinonimo di arretratezza e barbarie, che peraltro compare anche nei dizionari, perché se noi guardiamo anche il vocabolario Treccani, Medioevo, prima definizione, periodo di 1000 anni che va dal V al XV secolo, seconda, sinonimo di arretratezza, barbarie, eccetera. La mia curiosità è questa: perché si è così radicato questo concetto negativo, ingiusto e sbagliato nei confronti del Medioevo? Peraltro ci sono anche stereotipi positivi, quando si parla del Medioevo si identifica il Medioevo delle favole o delle fate, dei giullari, dei cavalieri e basta, o il Medioevo della dominato dall'oscurantismo della Chiesa e via di questo passo. In senso negativo si sbaglia anche in quel caso, perché il Medioevo è stato ben altro. Quindi il mio, diciamo che è un libro che si parla del Medioevo in una chiave di storia contemporanea, insomma, potrebbe essere anche considerato un libro di storia contemporanea, e qui mi occupo anche di temi cari alla sociologia della comunicazione, alla linguistica, tant'è vero che all'Università di Lecce ne ho parlato con due storici, un linguista e un sociologo della comunicazione. Allora Marco, diciamo, così mi permetto di farti un'ulteriore domanda su questo tema: a chi oggi interessa il Medioevo? Cioè, interessa a qualcuno? Beh, agli storici interessa di sicuro, sicuramente un'epoca. Sì, ma lasciando fuori gli storici, no? Che la loro professione magari ci vivono, ci campano. Nell'immaginario collettivo il Medioevo è una valvola di sfogo sia per le pulsioni negative, quando vediamo qualcosa che non va, evochiamo un ritorno al Medioevo, è una specie di atteggiamento scaramantico, come dire, noi siamo diversi, invece c'erano i secoli bui, che è un altro stereotipo negativo molto radicato nel lessico dei giornalisti e anche nel nostro. Poi ci sono altri che invece vedono il Medioevo come quello magico delle favole di Re Artù, dei Cavalieri della Tavola Rotonda, dei giullari, delle fate, eccetera, che è un altro stereotipo positivo, ma che non riflette la vera... Cioè il Medioevo esiste in questa logica solamente come... Nell'immaginario collettivo, quello che ci ricordiamo tutti è la piramide feudale, per dire che tutti, quando una persona normale dice cosa ricorda il Medioevo, la cosa ti viene in mente da scuola è la piramide feudale. Peccato che a sua volta sia uno stereotipo inesistente dai tempi di Marc Bloch. È stato, gli storici hanno stabilito che la piramide feudale non è mai esistita, però tuttora a scuola viene insegnata. Peraltro domani ne parlerai con Giuseppe Albertoni a Trento, no? Massimo esperto, no? Della tematica del feudalesimo. E tu hai delle immagini, adesso e ci arriviamo subito, però citi autori importanti in questo libro, tanto per capirci Luhmann, cioè, sì. O Eco ovviamente, cioè l'apparato teorico, già l'introduzione di Marina Gazzini, no? Cioè, va su questa, su questa traiettoria, perché lavora, cioè, usa Marc Bloch, sì, appunto, cioè, il dibattito teorico per te è stato importante, immagino. Ovviamente ho cercato di incardinare nella prima parte del libro, di spiegare perché questo tipo di ricerca, che per ora è unica, diciamo così, è così originale che mi ha invitato anche Geppi Cucciari a parlarne nella sua trasmissione, tant'è vero che, se volete, c'ho anche il video dopo da vedere, dove mi prende un po' in giro ovviamente come fa lei. Ho cercato di spiegare come si inserisce questo tipo di ricerca nella branca della medievistica che si chiama medievalismo, cioè lo studio del Medioevo dopo il Medioevo, che non è uno studio astratto, dice chi se ne frega come parlano i giornalisti, saranno problemi loro. Però secondo me è interessante capire come noi metabolizziamo la storiografia che esce dall'Accademia e come viene trasformata nell'immaginario collettivo e nei mass media, perché il modo in cui trasformiamo la storia poi è fondamentale per quel che riguarda il modo in cui guardiamo i fatti che ci succedono invece sotto gli occhi, compresi le guerre di questi anni, ed è fondamentale anche capire questi meccanismi per poi non cadere vittima anche di propaganda politica e non solo, che ci spinge a parlare di storia in maniera stereotipata in base a... Quindi a livello teorico si inserisce in questo campo. Ovviamente io cito anche Luhmann e altri studiosi dei mass media, perché questo libro riguarda anche proprio i meccanismi che i giornalisti e gli organi di informazione utilizzano per influenzare più o meno consapevolmente il pubblico che legge. Poi ovviamente, essendoci il web da molti anni, mi dedico anche al modo in cui tutto ciò poi si ripercuote anche sul web. Quindi si intreccia questo Medioevo alla chiocciola, perché è un modo, parlo di Medioevo ma attraverso la lente anche del mondo digitale e dei social, tant'è vero che c'è una chiocciola in mezzo al titolo proprio per significare questo. Peraltro la stessa copertina è stata fatta con l'intelligenza artificiale, abbiamo chiesto attraverso un sistema che mi ha fornito l'editore di creare una copertina che rispondesse un po' alle mie esigenze, al contenuto del mio libro, e da solo un computer, l'intelligenza artificiale generativa, ha generato quell'immagine dove si vede un cavaliere con un cavallo giocattolo, che un po' rappresenta il modo in cui giochiamo nel bene e nel male con... Ma l'armatura è vera, no? L'armatura, boh, sì, è più o meno verosimile. Poi vedrete che mi hanno costretto la Geppi Cucciari a parlare di questo libro davanti a due armature, portandomi fino alla Rocca di San Leo da Milano. E quelle invece secondo me erano finte, anche nei posti medievali veri ci sono contenuti finti, e questo è importante. Questo anche è, quando... Allora, poi ci fai vedere dell'immagine, ma tu poni anche la domanda nel capitolo 3, capitolo 3, paragrafo 6, eliminare il Medioevo dal vocabolario, cioè con la domanda, è da eliminare? Ma secondo me no, perché ormai è funzionale a una nostra narrazione, insomma, perché poi con cosa lo sostituisci, ti inventi degli altri nomi. Dire abolire il Medioevo è una provocazione, proprio perché che piace anche a alcuni storici più trendy, perché come dire, il Medioevo, i romani sapevano di essere in epoca romana, noi sappiamo di essere nella nostra epoca, nel Medioevo e nei vari Medioevi che ci sono stati in Europa e dintorni non sapevano di essere Medioevo, è un'epoca inventata a posteriore, quindi teoricamente si potrebbe anche abolire come concetto mentale, sarebbe meglio adottare appunto i Medioevi, ecco, le varie epoche che si sono succedute anche il plurale in aree diverse. Esistiato. Peraltro, adesso, siccome ultimamente, no, ma conoscerai meglio, no, un Gumbrecht, no, che a Stanford, o anche Kuchenbuch, no, uno dei grandi, davvero, che sono dei medievisti navigati, no, di lavorato per decenni, hanno davvero proposto, no, di abolire il termine, no, di ma concordo con te in questo caso. È una provocazione. Certo, no, no, è importante, diciamo, rendere trasparente il concetto. Importante, no? Bene, cioè, insegnare bene non solo la storia medievale, sì, che spesso in Italia perlomeno a scuola viene insegnata poco e male, ma soprattutto imparare in generale, quando si affrontano temi storici, a capire quali sono le fonti affidabili e quali no, soprattutto nell'era del web dove siamo sommersi da informazioni più o meno farlocche. E poi io alla fine del libro suggerisco tre sistemi che potrebbero servire per uscire un pochino da questa ignoranza che genera anche gli stereotipi. Ci vorrebbe una maggiore formazione di docenti scolastici, che spesso sono i primi a trasmettere certi stereotipi ai docenti. Quindi la manualistica, dove a 90 anni, da quando Bloch ha detto la piramide feudale non esiste ancora, c'è la piramide feudale, perché fa comodo anche per spiegare un certo tipo di Medioevo che la storiografia ormai definisce superato. E poi ci vorrebbe anche una maggiore formazione dei giornalisti italiani su questo fronte, perché i giornalisti, a meno che non abbiano studiato storia all'università un po', o siano laureati in storia, nei master post-universitari che li portano poi a fare l'esame di Stato, eccetera, non imparano la storia, gliene viene insegnata pochissima post-seconda guerra mondiale, tutto il resto. E soprattutto non viene insegnato un metodo storico di verifica delle fonti, mentre le verifiche delle fonti vengono banalmente insegnate per chiunque scriva cronaca rosa, giudiziaria o nera, anche per evitare querele. E questo è un grosso limite che poi si ripercuote nel contenuto degli articoli, perché nessuno si prende la briga di verificare una notizia propinata chissà da chi, di carattere storico, storiografico. Poi c'è un problema degli storici di professione, gli accademici, che vanno molto avanti con la ricerca, trovano nuovi documenti, fanno nuove ipotesi, dicono che la piramide medievale non esiste e poi non riescono a comunicare quello che fanno al di fuori dell'accademia, con il risultato che sulla manualistica scolastica e sui mass media le novità della storiografia arrivano con decenni di ritardo e quindi chi si forma poi a scuola recepisce modelli sbagliati. O vengono anche imposte dall'alto, no? Come abbiamo visto ultimamente con le disposizioni ministeriali che adesso rivalutano l'antichità. Non parliamo poi delle ultime indicazioni ministeriali che incoraggiano comunque su questo magari la storia in chiave nazionalista. Vuoi magari farci vedere qualche... Cioè adesso io non le ho viste, forse sono anche funzionali, utili al... al discorso che... Io propongo questo schema, ho presentato questo libro dalle case di riposo alle università, dalle librerie agli istituti tecnici e classici, e uso questa base. Questo per esempio prendo un po' in giro i mass media, perché in genere cosa succede, non solo in questo campo, che quando si dibatte, per esempio il Medioevo deve avere un'epoca oscura, sugli organi in TV vediamo spesso che si confrontano un giornalista, un economista, un ingegnere strutturale, potete metterci un ortolano, un geometra e un astronauta. Il problema è che spesso i professionisti del settore non vengono chiamati, con risultati pessimi. Questo l'abbiamo visto anche col Covid, si mettevano a confronto il mitomane di turno, un virologo, e l'autista degli autobus, e poi non si capiva più chi aveva ragione, chi aveva torto. Quando sono finito a Geppi Cucciari, vedete quelle due armature, secondo me erano di latta, erano finte, però la rocca era vera. C'è il bellissimo libro, non, di Carlo Ginzburg, no? Il vero, il falso, il finto, che fosse... Sì, ci sono vari medioevi, quelli veri... C'è il tema della falsità, o della, più che altro della finzione, mi sembra anche uno dei temi chiave del tuo libro. Sì, no? Diciamo, cioè la finzione ai sensi di una banalizzazione, no? dei temi medievali che vengono, per così dire, reinventati nella logica... Di un certo presente, no? Cioè, certo. Sono funzionali al presente. Ci sono vari medioevi, cioè il medioevo vero, che è quello degli storici, la storiografia, a sua volta in evoluzione, perché nell'Ottocento è stata inventata la piramide feudale, nel Novecento è stata distrutta. Anche la storiografia cambia. Poi c'è il medioevo... Allora però un medioevo vero non esiste proprio, no? Sì, no, sempre studiato da storici di professione. Poi c'è un medioevo finto, che ne so, San Marino sembra medievale, ma è stato costruito tutto fra fine 800 e inizio del 900. Idem il castello sforzesco di Milano. Poi c'è un medioevo fuori luogo, che può essere quello usato dai giornalisti a Capocchia per parlare di qualsiasi cosa, come vedremo. Poi c'è il medioevo falso, consapevolmente falsificato, che è il Medioevo, per esempio, utilizzato da Putin per giustificare l'aggressione in Ucraina in base a antiche presunte radici medievali, o da Milosevic per giustificare la guerra in Kosovo, oppure da un partito italiano che ha usato un Medioevo sbagliato, fuori luogo, consapevolmente, per creare le sue radici identitarie. Comunque anche il controdiscorso, la contranarrazione ucraina, no? Usa il Medioevo. Sì, certo, no? Cioè, nel senso che Putin ha scritto proprio un libro presentato anche in Italia in alcuni circoli di suoi fan, in cui teorizza che la Mosca abbia diritto a impossessarsi la quarta Roma, no? La famosa. La terza Roma, cioè la seconda era Bisanzio, e Mosca avrebbe redito, ma non solo, anche per una narrazione del Medioevo e della formazione della Russia in quell'epoca lì, che poi è per lo più priva di fondamento, ma ha giustificato una guerra. Comunque il risultato è che in media c'è un Medioevo che, con la colori che vedete lassù, non c'erano le auto doppia fila, i cellulari, però era colore, c'erano i colori, la gente faceva una vita da medievale, poi dipende, decorosa. Poi invece l'organo di mass media cosa fa? Dice: siccome il luogo comune, che è il Medioevo, è arretrato, è una cosa brutta, sporca e cattiva, mettiamoci un bel filtro. E in tanta anche serie televisive, in tanti racconti, e anche spesso nella nostra immaginario, il Medioevo è quella cosa in bianco e nero, grigia, col fango, con la gente triste, le fiaccole. Qui scattano i meccanismi classici, che soprattutto da quando c'è il web, che rappresentati da questa vignetta. Purtroppo l'ho trovato solo in inglese. Lei dice, guarda che sono fake news, e lui dice, ma come, se coincidono esattamente con quello che penso. Il meccanismo che crea tante bolle in cui ci si incontra tra gente convinta di cose più o meno fondate nel mondo digitale. Questo è un perfetto esempio del circolo ermeneutico, no? Del modo in cui noi, come dire, viviamo e sopravviviamo sul web, creandoci delle nicchie in cui pensiamo che, siccome troviamo prima lo scemo nel villaggio era uno, per trovarne un altro doveva fare un sacco di strada in vari villaggi e ci metteva un sacco. Ora basta creare un gruppo Facebook degli scemi del villaggio e si trovano 100.000 persone che credono aver ragione, perché si danno ragione fra di loro. Purtroppo non è così, però è un meccanismo. Sai che Gadamer, no? Non so se tu lo citi, ma Hans-Georg Gadamer, che è uno dei grandi della filosofia ermeneutica epistemologica, disse più o meno, no? Ciò che noi comprendiamo è già compreso, no? Certo. Ed è quella vignetta di prima. Sì, peraltro. Rientra nell'orizzonte di quello che noi aspettiamo. Per quel che riguarda la storia, già Benedetto Croce, più di 100 anni fa, nella sua avvertenza alla teoria della storia e della storiografia, diceva che anche la storia, quella del più lontano passato, è sempre contemporanea per noi, perché è evidente che solo un interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto passato. E 70 anni dopo un grande storico francese, Braudel, scrisse: la storia non è altro che una continua serie, scusate qua, forse dovrei usare questo, che serie, eccoci qua, di interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi, delle curiosità, nonché delle inquietudini e delle angosce di questi tempi, mi sa soprattutto le angosce del presente che ci circonda e che ci assedia. Noi nel nostro immaginario guardiamo al passato come termine di paragone per esorcizzare le paure che abbiamo adesso. Guardiamo alle guerre di oggi pensando a quelle del passato, dicendo certo non è come nel Medioevo, noi siamo comunque migliori. In realtà i veri secoli bui, secondo me, è stato il ventesimo secolo, dove abbiamo inventato due guerre mondiali, i lager, i gulag, i campi di sterminio, che nel Medioevo nessuno, per quanto gli ebrei fossero discriminati un po', ha immaginato di riunirli tutti in un lager e di farli secchi. Lo abbiamo immaginato noi, i nostri nonni, i nostri padri, a seconda dell'età che abbiamo. E quindi, ecco, se c'è un secolo buio è quello appena trascorso, e non so, questo non promette affatto bene, ecco, diciamo così. Lo stereotipo però sul Medioevo brutto e cattivo ha spinto alla fine del secolo scorso Régine Pernod, una grande storica medievista, a dire a un giornalista in un'intervista: io ti sfido a scrivere un articolo con questo titolo, il Medioevo, l'unica epoca di sottosviluppo che ci abbia lasciato le cattedrali. Ora immaginiamo le cattedrali che noi siamo abituati bene in Italia, in Europa occidentale, che siamo immersi nel Medioevo, le diamo per scontate, però tante archistar di oggi non riuscirebbero a costruire certe cattedrali medievali, tantomeno con i materiali di allora. Eppure può essere un'epoca oscura, un'epoca in cui hanno costruito le cattedrali, o in cui c'è stato Dante, in cui c'è stato Petrarca, in cui c'è stato Boccaccio, in cui c'è stato Giotto, chissà perché ce li insegnano a scuola. Un'epoca in cui c'è stato Carlo Magno, che è considerato uno, anche nella retorica europea, uno dei pilastri della nostra Unione Europea. Anche l'Alto Medioevo, che è quello più lontano, è molto interessante, ci sono state dinamiche politiche e sociali importantissime. Eppure nella mentalità comune, anche quella dei giornalisti, c'è il luogo comune. Qui vi faccio qualche esempio che fa anche ridere. Come vedete qui, un dirigente scolastico dice alle ragazze a scuola: evitate minigonne, bermuda, insomma abiti troppo succinti, perché a scuola è scuola. E la replica è un ritorno al Medioevo, quando le minigonne ovviamente erano vietatissime. Ecco, Federico II di Svevia le vietò esplicitamente nelle Costituzioni Melfitane. Ovviamente, come vedete qua, il ritorno al Medioevo c'entra anche con le minigonne. Anche a Terni, un sindaco dice che vuole multare le donne con minigonne e scollature eccessive, poi non so chi ci mandava i vigili urbani a misurarle, e anche lì le opposizioni, roba da Medioevo. Ma i temi, le occasioni sono tante. Qui ci sia una lite su una disputa sul sorteggio di ombrelloni e lettini negli stabilimenti balneari pugliesi e diventa un sistema medievale, che ovviamente non era un tema carissimo nel Medioevo, quello degli stabilimenti balneari. Comunque qui mi verrebbe anche da dire, diciamo, che è un uso anche un po', come dire, quasi innocuo, no? No, ma è innocuo, però diciamo che è importante capire perché la storia viene usata in questo modo, perché poi in contesti meno innocui viene usata magari in modi analoghi, propinando stereotipi, e noi siamo inermi di fronte a questo tipo di... E poi è interessante dal punto di vista scientifico, insomma, capire perché si è radicato questo tipo di... Vedete, qui ritorno al Medioevo con arche e frecce, qui autorizzano in Liguria la caccia al cinghiale perché ce ne sono troppi, anche con arco e frecce, e diventa un ritorno al Medioevo. Nel Medioevo invece era un rituale la caccia al cinghiale, e non erano così scemi da andarci da soli con l'arco e con le frecce, perché se fai malissimo a male un cinghiale con una freccia, poi lui è molto vendicativo. Era un rito, facevano a cavallo con i battitori, i cani, cioè era proprio un rituale, soprattutto nell'alto Medioevo. Persino la leggenda di Re Artù racconta della sua caccia al cinghiale, come a un enorme cinghiale che riuscì a battere. Però ci sono stati due sovrani medievali morti durante altrettante cacce al cinghiale, quindi vedete qui addio alla malattia pagata, ritorno al Medioevo. Questa ragazza fa un colloquio di lavoro con un tipo che fa il cretino e diventa un colloquio di lavoro da Medioevo. Qua c'è la metropolitana medievale, non funziona la metropolitana a Torino ed è colpa del Medioevo. La cosa curiosa è che su quotidiani, che la stampa non è il giornalino della parrocchia, insomma è un giornale importante, nello stesso giorno si può trovare l'intervista allo storico, magari a Barbero, che è piemontese, che dice ma no, nel Medioevo non ci sono stati secoli bui. E poi si può trovare un articolo in cui si dà la colpa al Medioevo della metropolitana che non funziona, e magari il giorno dopo o nel giorno stesso un articolo in cui il Medioevo diventa bello e affascinante perché c'è una sagra in qualche paese medievale, la tuffo nel Medioevo, nella splendida cornice, sulle ridenti colline di chissà di dove. Qua ci sono alcuni, qua già sulla stampa di colpo, ma quale secolo buio, il Medioevo è fantasy. Qui abbiamo un tuffo nel Medioevo tra storia e magia, dove di colpo diventa una cosa bella e magica. Questo è un altro dei tanti stereotipi anche radicati nelle serie televisive, eccetera. Ovviamente Trump e Musk hanno dato la stura a giudizi negativi in chiave medievale, per cui qua Trump e Musk, il manifesto, anche questo è un giornale serissimo di suo, orientato politicamente, una restaurazione medievale con feticci futuristi. Quindi qui si mischia Medioevo, futurismo, e viene un bel frappè. Qua vedete c'è anche Putin, Medioevo prossimo venturo, Milei e Trump a ripiombare nel Medioevo, come se la disabilità... Beh, i dazi forse, sono un po' i dazi, diciamo il sistema daziario medievale esisteva, no? Sì, esistevano, ma diciamo che non avevano le dinamiche, non era quello, però ovviamente il dazio è diventato subito medievale, diciamo che i dazi sono una cosa che ha influenzato soprattutto l'economia occidentale negli ultimi due secoli, più che... Qua abbiamo Rubio, uno dei più importanti esponenti della staff di Trump, con una croce sulla fronte, bentornato Medioevo. Ora vi sfido a trovare un dipinto, un'opera d'arte medievale in cui ci sia uno con una croce sulla fronte. Qua anche la Le Pen ovviamente torna in regime neomedievale perché è stata condannata. La giornalista tira in ballo la giurisdizio, vabbè, magari andrebbe scritta con la I e non con la J, che diventa il potere totale che coincide con l'etica pubblica, confondendo un po' l'epoca medievale con quella dell'assolutismo in cui effettivamente succedeva una cosa del genere. Qui il Foglio dà la colpa agli influencer se il Medioevo è maltrattato. In realtà lo stesso Foglio pubblica articoli in cui i giornalisti usano il Medioevo in chiave negativa. Non è... Bene, allora questo concetto l'abbiamo capito, no? Cioè, in tutti questi esempi, ma cioè, il Medioevo diventa una sorta di panacea, no? Per tutti i mali del presente. Sì, lo diventa anche per l'osservatore romano, come vuoi. No, certo, bello, l'osservatore è perfettamente imbevuto, no? Di medievalismo. Se c'è qualcuno che... Marco, dovrebbe essere... Forse un tema che diciamo, per uscire adesso da questa da questo discorso, no, dell'abuso, cioè tu come inseresti, mi sembra ne parli anche nel libro, cioè un uso medievale alla Tolkien, no? Che è molto interessante, no? Cioè The Lord of the Ring, che così, e poi con i film anche, ma è stato letto da generazioni e soprattutto poi amplificato dalle famose trasposizioni filmiche di Cameron, mi sembra, no? E, cioè lì c'è un altro uso del Medioevo, sicuramente come tu dicevi inizialmente, fosse romantico, fosse bello, la terra di mezzo, Middle Earth, no? Cioè, quello come lo cioè come lo inquadri, come lo giudichi, cioè quell'uso lì di materiale sicuramente, cioè, che si rifanno a un immaginario collettivo medievale, nordico in quel caso. Beh, il Medioevo è un'epoca piuttosto lontana e così vasta che offre materiale per qualsiasi tipo di prodotto, di tipo letterario più o meno di qualità, cinematografico, serie televisive. Ci sono film o serie in cui viene riprodotto un presunto medioevo tale quale, dove però ricorrono gli stessi stereotipi, in genere il medioevo violento, per esempio viene tirata fuori lo Ius Primae Noctis, che non è mai esistito, è un'invenzione di Sanapiente, viene tirato fuori la cintura di castità. Persino nei film di Fantozzi, in cui ci sono scene ambientate nel Medioevo, c'è la cintura di castità, ovviamente, che è un'altra cosa che non è mai esistita, è stata inventata nell'Ottocento, e quindi recentissimamente si tirano fuori il concetto di piramide feudale, che, come abbiamo visto, non è fondato. Quindi ci sono... Raffaele Licinio diceva che il libro più fedele a quel che era veramente il Medioevo, perlomeno all'epoca delle crociate, diciamo fra XI e XIII secolo, era Brancaleone alle crociate, perché in realtà il Medioevo coincideva di più con quel tipo di realtà lì, dove c'era anche una comunità di, cioè non c'erano solo i cavalieri, le dame, eccetera, c'era un mondo complesso in cui anche il popolo vero e proprio, come dire, aveva un ruolo fondamentale, che viene si riflette abbastanza bene anche nelle crociate raccontate nella saga di Brancaleone. Poi ci sono una serie di serie televisive che utilizzano il nostro immaginario medievale, più che il medioevo vero, in maniera copiosa. Lo stesso la saga di Harry Potter, ci sono tante ambientazioni che richiamano, a parte la magia, insomma, ma lo stesso contesto anche, diciamo, paesaggistico, architettonico, si consuma il film, ci sono una serie di elementi medievali, così come nel Trono di Spade, così come nel Signore degli Anelli. Però sono rappresentazioni che coincidono o col Medioevo brutto e cattivo di cui abbiamo parlato prima, trascurando il fatto che tutti gli aspetti positivi, insomma, del Medioevo che abbiamo ereditato, visto che è un pilastro della nostra identità, compresi le banche, gli occhiali, per dire, la stampa tipografica e via di questo passo. Oppure c'è un Medioevo totalmente fatato, quello della magia, delle fate, eccetera, che troviamo per esempio nel Signore degli Anelli. Ecco, diciamo che il Medioevo è un cilindro da cui si può tirare fuori un po' di tutto, anche perché è un'epoca così lunga, così lontana dalla nostra rapporto tangibile col potere, con la politica, con la cultura, con la religione, eccetera, che si è prestata un po' di tutto. Diciamo che io però nel mio libro mi occupo di più del modo subliminale in cui abbiamo introiettato questi stereotipi sul Medioevo e li utilizziamo. A me è capitato di fare una lezione all'Università di Messina e un ragazzo che studiava storia medievale con la Marina Montesano, cioè appunto dice: ma ora che ci penso anch'io dico ritorno al Medioevo, quando voglio dire ritorno a una cosa brutta, al passato, alla barbarie. Dico: stai attento, perché qua poi ti fa l'esame la professoressa e ti boccia. Questo magari no, però intendo dire, probabilmente persino qualche storico del Medioevo ogni tanto gli scappa e ritorna al Medioevo come battuta. Però, come dire, è un concetto che abbiamo introiettato molto e che ha radici soprattutto nella retorica ottocentesca, prima illuminista, poi ottocentesca, sul Medioevo e poi anche nell'uso del Medioevo nella politica, soprattutto a livello politico al giorno d'oggi, con strafalcioni, io ne cito alcuni, anche da parte di molti politici di ogni schieramento. Qui, poi persino, dicevo, qui ci cade anche l'Osservatore Romano, dove in questo articolo si sostiene che il diavolo esiste, bisogna crederci, anche, eppure noi veniamo accusati, se sosteniamo che esiste, di un ritorno al Medioevo. Ora che ci caschi la Chiesa Cattolica, che, come dire, il Papa come principale autorità della Chiesa è stato inventato nel Medioevo tra XI e XIII secolo, XII, quindi diciamo che il Medioevo meriterebbe che almeno sull'Osservatore Romano non diventasse uno stereotipo negativo. Eppure forse succede, non conosce l'Osservatore succede Romano, anche il Decretum Graziani, no? L'ha letto, o chi ha scritto quell'articolo. A livello politico viene usato, se vuoi ne parlo, in maniera curiosa, insomma, nel senso che la destra italiana utilizza, qui abbiamo il Secolo d'Italia, che è stato il quotidiano dell'MSI, adesso dei Fratelli d'Italia, usa invece il Medioevo in chiave positiva, ma inteso come il Medioevo in cui il rispetto per l'autorità, per la religione, per le tradizioni sarebbe stato più radicato. Quindi diventa un feticcio positivo, ecco, per la destra italiana, lo era già ai tempi di Mussolini, tant'è vero che chiamò i sindaci, quando li fece fuori li trasformò in podestà, non a caso. E qui il Secolo d'Italia dice: la sinistra non ama il Medioevo, i secoli bui conquistano masse di ammiratori e fascista e medievale sono insulti in gran voga in queste settimane. Io ho sentito qualcuno che è stato insultato, aggredito, non so come dire, al grido fascista, ma al grido medievale non mi risulta, però se lo dicono loro. Però effettivamente la sinistra in Italia è quella che ha più pregiudizi nel confronto del Medioevo, perché se lo immagina in realtà come lo immagina la destra, e quindi diventa, tra virgolette, un avversario politico. Anche se ci sarebbe una tradizione... Tant'è vero, vedete qui... Marco, scusami se ti interrompo un secondo. Ci sarebbe una tradizione tutta nobile e progressista, no, dell'uso medievale, l'Italia comunale, le città-stato che erano fucine, diciamo, di una società libera, per così dire, in una visione progressista, socialista, democratica. Cioè, sì, nella politica contemporanea... Parlo ovviamente del periodo rinascimentale. Sì, diciamo che i comuni dal XII secolo in poi... però nella visione della politica italiana quel periodo non viene citato, perché siccome è stato fatto coincidere come l'inizio della rivoluzione borghese, la nascita dei comuni, allora la destra non piace perché, come dire, è una roba troppo progressista, la sinistra non piace perché invece si concentra sull'aspetto, come dire, della arretratezza. Qui per esempio vedete l'altro giorno bocciata la destra Medioevo, cioè proprio da parte del PD, di questo esponente del PD, un'equivalenza destra uguale Medioevo. Poi non vorrei, le ultime ricerche della storiografia, è uscito adesso un bel libro di Giuseppe Sergi e Antonio Brusa dedicato agli insegnanti, si contesta il fatto che i comuni medievali fossero questa fucina di democrazia, eccetera, perché per esempio i comuni medievali nei confronti di chi viveva nelle campagne circostanti spesso erano molto più autoritari della signoria feudale vecchio stampo, e comunque molto spesso le aristocrazie che governavano i comuni coincidevano con le aristocrazie nobiliari. Ecco, anche il concetto di Medioevo come culla della rivoluzione borghese è stato molto superato nella storiografia contemporanea. Qua persino Gaspari è perplesso perché viene accusato di essere medievale. Come vedete qui ritorno al Medioevo, all'Inquisizione, anche l'Inquisizione, così come la caccia alle streghe, sono due fenomeni che si sono sviluppati in età moderna, non nel Medioevo, sono iniziati alla fine del cosiddetto Medioevo, però il boom c'è stato in età moderna. Però tutti noi pensiamo caccia alle streghe uguale Medioevo, se, Inquisizione uguale Medioevo, invece non è così. Vi faccio vedere qualche altro esempio. Nella cronaca nera il ritorno al Medioevo viene evocato solo quando ci sono casi di violenza sessuale o femminicidi o la mafia o casi di inquinamento mafioso, perché l'equivalenza è così come il feudatario cattivo che abbiamo in mente opprimeva il popolo sottostante, così i clan mafiosi e il boss mafioso opprime il popolo sottostante, così che vedete, sud il Medioevo delle mafie, nella narrazione giornalistica delle mafie il Medioevo viene evocato spesso a sproposito. Addirittura un processo è stato chiamato Medioevo tale quale sul Gargano, giustizia da Medioevo e via di questo passo. Un altro errore che fanno gli organi di informazione è parlare di ritorno al Medioevo quando qui è il caso del ritorno dei talebani in Afghanistan e si applica il concetto di Medioevo a realtà geografiche, chiamiamo così, in cui il Medioevo non c'è mai stato, perché il Medioevo coincide con l'Europa, soprattutto quella occidentale, un pezzetto di bacino del Mediterraneo, ma altrove c'è una coincidenza temporale, ma il Medioevo come il nostro, con la nostra storia, la nostra arte, i nostri filosofi, la nostra religione, altrove non c'è stato. Quindi è un errore parlare di ritorno al Medioevo in Australia, in Afghanistan, eccetera. È come se noi dicessimo a Bolzano non funziona, poniamo la raccolta dei rifiuti e un ritorno al tempo degli Incas. È impossibile perché gli Incas qui non ci sono mai stati, idem. Evocare il ritorno al Medioevo in posti in cui non c'è mai stato è sbagliato. Eppure viene fatto continuamente, come vedete. Poi ci sono altri casi, non vi voglio tediare. Qui addirittura il fatto che venga servito un tacchino con dentro i pomodori intero nella mensa della RAI scoppia uno scandalo, perché un consigliere di amministrazione della RAI dice è un ritorno al Medioevo, e qui poi è buffissimo perché i tacchini sono arrivati dopo il Medioevo con la scoperta dell'America, idem i pomodori, le patate e via di questo passo, però il mais. Eppure ci sono tante sagre medievali, anche importanti, in cui c'è il tacchino addirittura al centro nelle langhe di una disfida fra contrade, in base a un presunto antico documento medievale che non può essere esistito perché i tacchini sono arrivati in Europa nel XV secolo e anche dopo, anzi i primi forse anche all'inizio del XVI. Qua ci sono altri esempi, vedete anche dietro la fibra ottica il Medioevo, ovviamente non funziona il wifi, è colpa del Medioevo, è vero che i castelli hanno i muri spessi quindi il wifi non prende, ma però vedete qui dietro la fibra ottica il Medioevo, il muro 2.0 ritorno al Medioevo, addirittura il POS, quello che, su cui appoggiamo la carta per pagare con la carta di credito, è roba da Medioevo e via di questo passo. Chat, vietare chat GPT e roba da Medioevo. Qui poi magari lascio spazio anche se c'è qualcuno che vuol chiedere qualcosa. Questo è il caso dell'uso del Medioevo nella cronaca rosa. Qui su Cosmopolitan Lady Gaga tratta male una sua assistente durante il tour a Milano e diventa un capriccio che fa pensare al Medioevo. Vedete, lei è la tipica Madonna medievale nell'immagine. Idem, qui c'è Laura Chiatti che dice che a lei gli uomini che fanno le pulizie in casa non piacciono perché lei vuole l'uomo tradizionale e vuole farle lei le pulizie, l'uomo che fa le pulizie non la erotizza e viene accusata di Medioevo. Benvenuti nel Medioevo di Laura Chiatti. Idem qua su Wanda Nara, criccata dal calcio da Medioevo con la critica perché è l'agente di suo marito. E via di questo passo. Qui ci sono alcuni. Qui Verdone, ai tempi del coronavirus, mischia nel 2020 situazione manzoniana da Medioevo, quindi mischia il Medioevo con un autore del XIX secolo e con una pestilenza capitata in età moderna, quindi è un frullato di tre cose. E via di questo passo. Anche a livello sportivo basta che un arbitro sia severo e viene accusato di ritorno di essere medievale. Qui la Juve viene condannata dalla giustizia sportiva e il direttore del Corriere dello Sport titola l'afflittività è un tema medievale. Non sfugge nessuno a luogo comune, come vedete qua, ora castrazione chimica, ritorno al Medioevo, un avvocato che non riesce a fare l'esame di Stato è un praticante medievale e via di questo passo. Poi per finire, qui questo mi fa ridere perché addirittura qui in questo articolo asseriscono di aver trovato un documento in base al quale risulta che come i cavalieri medievali facessero attività fisica e quindi qui si consigliano 7 esercizi usati dai cavalieri medievali per restare in forma. Quindi nonostante 800 kg di armatura, cioè se non ce l'avete non potete fare fitness la medievale, però c'è anche questa possibilità. E questa è un'immagine della storia di un autore greco ottocentesco che mi piace molto. Diciamo che il contesto... Che rappresenta che cosa? Questo rappresenta proprio la storia, ed è un autore, è un pittore greco ottocentesco che ha un nome complicatissimo, non me lo chiedo adesso. No, non te lo chiedo. Però se andate a cercare storia su Wikipedia offre tra le immagini anche questa, sono le quelle di Chiedo. Allora Marco, per tirare un po' le somme, no? Cioè per arrivare alla conclusione di questa presentazione, cioè in che modo possiamo ancora parlare oggi del Medioevo? Cioè come possiamo utilizzare quella parola e non discostandoci dagli usi impropri che ci hai fatto vedere? Cioè, è possibile utilizzarlo? È possibile parlarne in modo sensato? Cioè, che ragione ce ne facciamo del Medioevo? Allora, premesso che io non invito ad andare a caccia di giornalisti con la mazza da baseball, perché sarebbe un lavoro improbo e crudele, soprattutto lunghissimo, ma da portare a termine. Anche perché ti renderesti antipatico tra i tuoi colleghi. No, però ecco, diciamo, io ho presentato questo libro anche alla Pinacoteca di Brera, con come interlocutore il vice direttore del Corriere e il direttore di Wired, dove ci siamo concentrati sui limiti della formazione giornalista in campo storico. Per cui diciamo che il Medioevo si può usare come, però cercando di capire meglio cosa è stato, quale grande varietà di sfumature ha avuto, e quindi insegnandolo bene a scuola. Uno dei siccome comunque lo dice persino nei vari proclami dell'Unione Europea che noi abbiamo radici nel Medioevo eccetera, ma se poi la percezione del Medioevo è questa, poi si capisce perché non andiamo tanto d'accordo, perché se il modello deve essere un'epoca buia, quella che abbiamo in mente nel nostro immaginario, è un problema. E quindi va studiato come tutta la storia in generale, perché poi gli stereotipi ci sono anche quando parliamo di storia contemporanea, basti pensare quando parliamo di resistenza o di foibe o di cose del genere, ogni tanto mi fa dei segnali, per fortuna ho una voce abbastanza, come dire, mia moglie dice che ho ingoiato un megafono, ma bisognerebbe insegnare di più ai ragazzi fin dall'elementare. La Società Italiana per la Didattica della Storia si impegna molto su questo fronte, a studiare la storia in maniera appropriata, non in maniera mnemonica, cronologica, in maniera anche divertente, in modo da offrire ai ragazzini fin da piccoli la capacità non solo di imparare a memoria delle date che lascia il tempo che trova, ma di capire quello che succede e di avere una visione molto sfaccettata di quello che succede e avere gli strumenti per capire come si verifica una fonte anche di carattere storico e quali sono le fonti fondate e quali no. Io banalmente devo spiegare ai giornalisti che Wikipedia non è una fonte affidabile, perché quello che fanno tutti i giornalisti spesso, quando succede qualcosa, fanno un copia e incolla da Wikipedia. Io ho dimostrato loro che posso fare davanti ai loro occhi, modificare le voci, eccetera. Quindi, secondo me, a livello della formazione dei giornalisti e a livello di didattica scolastica occorrerebbe insegnare la storia di più, si insegna pochissimo attualmente anche alle superiori, negli istituti tecnici un'ora alla settimana, alle superiori due, viene insegnata in maniera spezzettata, in base alle ultime indicazioni ministeriali bisognerebbe insegnarla solo in chiave nazionalistica e sovranista. Per insegnarla in modo efficace bisogna che prima di tutto i docenti siano consapevoli abbiano una formazione storica adeguata, cosa che non hanno. In una scuola a Bari qualche giorno fa ho chiesto ai docenti, prima di questa cosa in aula magna, voi insegnate ancora la piramide feudale? Tutti no, no, figurati. Poi ho chiesto agli studenti in aula, vi insegnano ancora la piramide feudale? Sì, ce la insegnano ancora, quindi mettetevi d'accordo. Formazione di docenti importanti, la revisione della manualistica è fondamentale. Una formazione migliore dei giornalisti che si occupano di storia medievale non solo è decisiva, e poi bisogna che gli storici scendano di più in campo, escano un po' dall'accademia. Normalmente si fanno grandi ricerche, novità di carattere storiografico sul Medioevo, si fanno dei bellissimi convegni in università, si pubblicano gli atti come i nostri del 2005 nel 2011, nel frattempo sulla manualistica scolastica non aveva niente, nella formazione dei docenti non aveva nulla, nella formazione dei giornalisti neppure. E questo è un cortocircuito che non fa funzionare, come dire, non aiuta la gente normale ad avere una cultura storica, una capacità di analizzare i fatti adeguate, con conseguenze ricadute che poi non sono solo così teoriche, ma poi sono ricadute anche nel rapporto con la politica, con quello che ci raccontano, con quei pregiudizi che ci vengono rifilati in tanti campi, eccetera. Quindi il Medioevo si deve usare come, anzi è un'occasione buonissima secondo me per insegnare nelle scuole meglio questa materia, può essere anche insegnare ai ragazzi a trovare tutte le definizioni farlocche di Medioevo, loro sono sempre su online, insegniamogli a cercare anche le fesserie sul web, non solo e a individuarle, non solo a andare così a casaccio. Bene Marco, con questo appello io chiuderei qui, magari ci sono delle curiosità da parte vostra, domande a Marco. Vi stimolo una considerazione facendo presente che userò un tono ironico, non prendetemi sul serio. E sono molto preoccupato dalla tua presentazione, perché mi preoccupa molto quella che sarà la percezione fra un migliaio di anni dei nostri discendenti nei nostri confronti. Cioè, se noi abbiamo usato questi parametri per giudicare il Medioevo, cioè l'epoca lontana, e che ha espresso personalità, insomma, di un certo rilievo, un Federico II di Svevia, insomma, linguisticamente si muoveva dal nord dell'Europa al sud anche da solo, senza interpreti, mentre noi abbiamo un Trump che, da quel che so, usa una sola lingua e con un vocabolario molto, insomma, molto ristretto. Cosa penseranno di noi, in parte hai già risposto, i nostri i posteri, ma quelli proprio lontani, quando andranno a studiare la storia di questo periodo rispetto a quella precedente, cos'è che penseranno? Beh, gli storici del futuro dovranno pensare anche a una nuova periodizzazione, perché o decideranno di far durare il Medioevo altri 1000 anni, per cui chi lo sa, perché poi c'è chi dice la cronologia in cui è compreso il Medioevo non mette già tutti d'accordo adesso, ma per qualcuno non è ancora finito, oppure è finito con la Rivoluzione Francese, dipende dai punti di vista. In futuro sicuramente gli storici dovranno pensare, la storia attualmente contemporanea sarà storia del passato, come la chiameranno non lo so, però di sicuro quello che so è che in un regime liberal democratico, nelle democrazie cosiddette, che ahimè siamo una minoranza nel mondo, noi ci sembra di avere tutto garantito, ma stiamo anche grandi democrazie, come stiamo vedendo, stanno, come dire, trasformandosi in autocrazie, anche quelle più insospettabili, vediamo quello che succede negli Stati Uniti. È fondamentale che la società, la politica, la cultura, gli intellettuali trovino gli strumenti per trasmettere in maniera adeguata non tanto la conoscenza a memoria della cronologia dei re da un tot anno a un altro, quanto siano in grado di offrire alla gente gli strumenti per essere in grado da sola di capire, di leggere, di verificare, soprattutto oggi nell'era del web, leggi un articolo, dici ma bisogna avere la capacità di chiedersi chi l'ha scritto, perché l'ha scritto, in che periodo l'ha scritto, nell'interesse di chi l'ha scritto, che formazione ha per scrivere quelle cose. Noi spesso leggiamo articoli, ci fermiamo al titolo, alle prime 20 righe, introiettiamo quei contenuti lì e magari andiamo avanti anche in campo storico per lungo tempo con quella pregiudizio in mente, senza esserci chiesti perché ci viene detta questa cosa in questo momento. È meno complicato di quanto sembri, però è uno strumento fondamentale per proteggere alla fine della fiera un regime liberal democratico, perché se noi non siamo in grado di controllare il modo in cui l'informazione ci viene rifilata, anche quella di tipo storico, siamo nei guai, e la nostra società umana è nata sull'informazione, da quando abbiamo imparato a scrivere eccetera. Senza la capacità di trasmetterci informazioni non esisterebbe la civiltà umana. Però bisogna vedere anche quali informazioni. Le informazioni che fornisce Putin o che forniva Mussolini o che forniva Stalin erano corrette, la gente aveva la possibilità di contestarle, ammesso che se ne potesse accorgere, se no non aveva la possibilità. Oggi noi ce l'abbiamo, ma dovremmo pretendere, come dire, che a cominciare dalla scuola la formazione fosse adeguata a questa sfida, altrimenti siamo in balia un po' delle strumentalizzazioni politiche, non sole, e vediamo cosa sta succedendo nel mondo adesso. Ormai si va avanti a luoghi comuni, a slogan, ci si divide come se dovessimo sempre su la guerra in Medio Oriente o quella russo-ucraina, ragioniamo come se parlassimo di Juve Inter o di Torino Juventus molto spesso, senza renderci conto di cosa ci sta dietro. Questa superficializzazione della conoscenza è un dramma, perché noi siamo stati convinti, ci siamo raccontati che siccome ora c'è anche il web, abbiamo 10.000 canali televisivi eccetera, abbiamo tantissime informazioni e così siamo più informati. Invece no, abbiamo un'overdose di informazioni tale per cui alla fine non ne abbiamo nessuna e non abbiamo la capacità di distinguere informazioni fondate e affidabili da quelle farlocche, anche in questo campo. E questo è un po' il messaggio che do anche nel mio libro in generale. Come ci giudicheranno in futuro, speriamo bene, insomma, se andiamo avanti così speriamo che ci si possa essere qualcuno in futuro in grado di raccontare quello che abbiamo combinato, se no verranno gli extraterrestri, non so. Grazie Marco. Breve sguardo di controllo, non vedo mani alzate. Allora, a questo punto un grande grazie e applauso a Marco per la presentazione e un grazie alla biblioteca per averci ospitato. Grazie.